Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, scusate il rumore, sto spostando il microfono, faccio sempre un po' di confusione prima di partire. Bentornati a Salva Danaio. E allora, oggi di cosa parliamo? Di mercati, come abbiamo preannunciato questa mattina, soldi e dintorni. Cosa sta accadendo in tutto il mondo? Da marzo, dai minimi del 9 marzo, le borse mondiali hanno recuperato mediamente il 45-50%, c'è qualche piazza che ha fatto addirittura il doppio, basti pensare a Piazza Affari che ha fatto più 80% da il minimo appunto di inizio marzo. I rendimenti dei titoli di Stato sono a zero, i tassi di interesse ai minimi livelli storici, la disoccupazione americana ai massimi livelli dal 1983 e sta ripartendo la stagione delle trimestrali. Si riparte proprio domani negli Stati Uniti, toccherà come sempre ad Alcoa, uno dei grandi produttori mondiali di alluminio, e quindi abbiamo una vigilia piuttosto delicata perché da domani conosceremo i bilanci aziendali dei primi 9 mesi di questo 2009, per certi versi da dimenticare. Però appunto, come dicevamo, le borse continuano a correre, sembra essere una situazione di grande tranquillità per i mercati azionari, che sembrano non risentire di niente e proseguono incuranti anche delle peggiori notizie la loro tendenza positiva, smentendo anche chi da settimane vede una correzione prossima dietro l'angolo, che comunque non arriva. Quale portafoglio di investimento alla luce di tutto questo stanno costruendo e suggerendo i principali gestori? Quali strategie di investimento si possono proporre anche ai piccoli risparmiatori? Questo è il tema che affronteremo stamattina con Emilio Franco, responsabile investimenti UBI per America SGR. Bentornato Salva Danaio. Grazie, buongiorno. E bentornato anche a Mario Spreafico, responsabile degli investimenti di Schroders Private Banking. Ho detto tutto correttamente, tutto visto corretto. Che la carica è fresca fresca. Spreafico, bentornato anche a lei. Grazie. Ovviamente microfoni aperti come sempre a voi. 800 24 00 24 è il numero verde che potete cominciare a comporre sin da subito. Per prenotarvi ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Tendenza positiva dei mercati da marzo, dicevamo, ma anche oggi vediamo una giornata piuttosto scoppiettante per i listini europei. Più 1,41% a Parigi, più 1,65% a Francoforte, Londra più 1,46%, Milano più 1,70%. Cosa succede oggi? Che in tutta Europa c'è una grande corsa agli acquisti di titoli bancari, ci sono diversi rapporti positivi su questo settore, rapporti che sono stati compilati da altre banche. Anche questo sarà un tema interessante da affrontare questa mattina. In ogni caso, a Piazza Affari in realtà sta volando Mondadori, più 4,20%, segue la Popolare di Milano, più 3,74%, Intesa, più 2,78%. Saipem con il petrolio fermo sui $70 guadagna oltre 2,5 punti, Mediolanum più 2,62, Prysmian più 2,57, c'è un bel gruppo di titoli che guadagna oltre 2 punti, Geox, Autogrill, STM, Ubibanca, Finmeccanica e anche Telecom. Il segno meno fino a poco fa, e c'è ancora, era solo su Parmalat che sta perdendo lo 0,23% e Luxottica meno 0,23%, scusate, Parmalat meno 0,16%, e probabilmente su Luxottica si risente il peso del dollaro che ha ripreso a scendere sull'euro a 1,47,27. Questi sono un po' i temi della giornata, poi sui temi generali di borsa invece andremo con i nostri ospiti di questa mattina. Allora riepiloghiamo un po' quello che è accaduto sui mercati nelle ultime settimane. La grande correzione dei mercati che molti si aspettavano dopo il rally estivo non è arrivata. Anzi, contrariamente a quanto accaduto in passato, il mese di settembre si è chiuso con il segno più davanti a tutti i principali listini azionari. Rialzi superiori al 5% per Londra, seguita da Milano, Parigi e New York. Guadagni che hanno consentito alle borse di consolidare i rialzi a doppia cifra messi a segno dai minimi toccati lo scorso mese di marzo ad oggi. E in quest'arco di tempo la migliore è stata proprio Piazza Affari, con un più 80%, seguita da Madrid più 68% e New York più 52%. A conti fatti, gli investitori sembrano aver scommesso sulla stabilizzazione della crisi ed ora potrebbero correggere la loro linea dopo aver puntato e realizzato. È altrettanto vero, però, come indicano gli esperti, che per vedere un ritorno definitivo del toro bisognerà aspettare un recupero dei fondamentali. Un importante segnale per valutare lo stato di salute dei big internazionali saranno ancora una volta le trimestrali, che prendono il via negli Stati Uniti in questi giorni. A fare da apripista sarà domani il big dell'alluminio, Alcoa, che diffonderà i conti relativi al terzo trimestre, buon termometro per misurare lo stato di salute dell'economia globale. A seguire Intel e General Electric, per arrivare poi alla metà di ottobre, quando ad alzare il velo saranno proprio le banche. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, per i vostri messaggi invece potete utilizzare il 349 238 6666. Andiamo subito al nocciolo della questione, a monitorare un po' questo andamento di borsa che continua ad essere, al di là di qualche pausa come quella che si è verificata in giugno, piuttosto positive. E allora chiedo subito a Mario Spreafico, Schroeder's Private Banking: la borsa riflette correttamente intanto la situazione economica? Da domani vedremo anche se riflette correttamente lo stato di salute delle società, ma in termini generali stiamo rientrando in una bolla, come sostengono in molti? Questa tendenza è ragionevole o no? Qual è la vostra posizione? Ma dunque, è ovvio che di fronte a delle incertezze di base, come siamo ormai stiamo osservando da qualche mese, perché credo che da un certo punto di vista le borse stanno obiettivamente esagerando. Non parlerei di bolla, ma credo che c'è una decorrelazione evidente fra quello che è l'aspetto macroeconomico, quindi da un punto di vista globale, quindi di economia reale, e l'effettiva realtà dei conti aziendali, ma soprattutto alcuni indicatori come la tendenza dei consumi, la disoccupazione, che sono aspetti fondamentali per fare poi un'analisi di quelle che potranno essere le previsioni economiche. E credo che il quadro macroeconomico passa in secondo piano, e quello che riflette i mercati finanziari, questo, la convenienza di investire e di cambiare la cosiddetta rischiosità degli investimenti. Quando ci sono dei tassi di interesse così bassi e soprattutto sul breve termine, non esiste alternativa se non quello di aumentare il rischio per avere una maggiore remunerazione del capitale. Quindi molti temi, come il vecchio tema dei dividendi e altre situazioni che possono essere il mercato del credito e quindi l'investimento in capitale di rischio, diventa prioritario. Questo spiega perché le risorse economiche, finanziarie e globali si stanno riallocando su degli aspetti di rischiosità superiore rispetto a quello che è stato poi l'inizio di quest'anno, che è stato effettivamente tragico. Anche se a me piacerebbe molto sapere chi sono, come dire, i protagonisti di questa riallocazione in termini di compratori, perché sento molte considerazioni come quella che lei ci ha appena rilasciato. C'è una grande prudenza intorno all'investimento nel mercato azionario in questo momento. Peraltro, proprio una recente intervista sul Sole 24 Ore lo sosteneva anche Emilio Franco, responsabile investimenti UBI Pramerica SGR: noi sull'azionario siamo prudenti. È così? È così. Diciamo, nel corso degli ultimi mesi quello che abbiamo assistito è stato un riprezzamento da parte dei mercati degli asset più rischiosi in relazione al tipo di processo economico e di sviluppo economico che ci sarà una volta terminata la recessione e la crisi finanziaria che abbiamo attraversato. Febbraio-marzo sono stati mesi terribili, gli ascoltatori se lo ricorderanno, gli addetti ai lavori forse ancora di più, e il pessimismo allora aveva toccato livelli epocali, speriamo che non ritoccarlo più, ma gli argomenti di allora erano la seconda grande depressione, il Giappone. Il pessimismo era estremo, e quindi siamo partiti da una situazione in cui si riteneva che i grandi interventi di politica economica, monetaria e fiscale che già erano in essere non sarebbero stati in grado di riportare le economie sviluppate su una traiettoria di sviluppo paragonabile a quella del passato. Poi che cosa è successo? Che in realtà, per effetto di questi eccezionali interventi, tanto sulla liquidità in un primo tempo, sui tassi di interesse e eccezionali interventi di politica fiscale, specialmente negli Stati Uniti, taglio delle imposte, incentivi alla rottamazione delle auto e via discorrendo, non li voglio toccare, dati macroeconomici che erano collassati su livelli senza precedenti nel quarto trimestre dell'anno scorso e avevano debordato nel primo trimestre di quest'anno sull'onda di quelle aspettative tanto negative da parte degli operatori economici, consumatori e imprese, hanno cominciato a recuperare da livelli estremamente bassi, estremamente depressi. Il consensus macroeconomico era estremamente negativo, e questo ha cominciato a determinare una serie di sorprese positive di questi dati macro, che hanno cominciato a non peggiorare più e al margine, pur rimanendo su livelli molto bassi, a migliorare. E questo, continuando nel corso del secondo trimestre e poi nel corso dell'estate, ha secondo noi fatto rileggere lo scenario agli operatori e agli investitori, facendo passare da zero la probabilità che avessimo a che fare con una stabilizzazione e un recupero come quello che storicamente succede, a una probabilità progressivamente più significativa e positiva. E questo si è concretizzato, se noi utilizziamo come indicatore di questo recupero da livelli molto bassi dell'economia, utilizziamo l'ISM, leading indicator principe nell'economia americana, e vediamo le correlazioni degli asset più rischiosi, azionario, corporate bond, anche le commodity rispetto a questo indicatore, materie prime, la correlazione è stata coerente con quanto succede nella storia. Quindi la probabilità era zero che avessimo a che fare con un recupero normale, e diventata progressivamente un pochettino più grossa. E questo è stato alimentato da una correlazione storica che c'è ed è molto forte. Cioè, storicamente, questo in tutte le recessioni dal dopoguerra ad oggi, esiste questa relazione che tanto più profondo è il calo dal picco dell'economia al bottom nella recessione, tanto maggiore è, raggiunto il bottom, la velocità con cui l'economia riparte nel periodo successivo. E anche questo sarà un discorso interessante, magari da sviluppare nella seconda parte di Salvadanaio. Come avverrà? Sì, Franco, volevo concludere. Questo è il contesto. Adesso abbiamo normalizzato l'avversione al rischio e abbiamo riprezzato una probabilità, secondo noi, un po' eccessiva che questo recupero dalla recessione, che probabilmente alle spalle, sia in linea con quello che storicamente succede. Meno 4 ha fatto l'America dal picco al minimo, le correlazioni storiche vorrebbero un rimbalzo molto forte. Noi pensiamo che questo ciclo sia un po' diverso. La famosa questione della ripresa V? Esattamente, questo ciclo sarà diverso, il tipo di recupero che stiamo vedendo è di bassa qualità, poco sostenibile, il processo di riduzione dell'indebitamento dei consumatori e delle banche è in atto ed è quello che sta continuando a generare pressione disinflazionistica, crescita della disoccupazione e quindi darà un tono molto soffocato al tipo di ripresa che abbiamo davanti, con dei rischi a ribasso. E allora noi poi vorremmo concretizzare tutta questa analisi macroeconomica anche in relazione alle scelte di investimento che è possibile in una fase come questa suggerire a chi ci ascolta, chiaramente in maniera pertinente ai portafogli che si hanno a disposizione. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Facciamo fare allora subito la domanda a Mauro dalla provincia di Firenze e gli risponderemo dopo la nostra pausa. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Dunque, no, la mia domanda per voi, per gli esperti, erano appunto le prospettive in un prossimo futuro e in particolare per quanto concerne, se è possibile, un titolo che ho in portafoglio. Non possiamo dare suggerimenti. Lei, Mauro, se ci ha sentito bene ieri, abbiamo raccontato 10 anni di storia di Radio 24 di Salvadanaio. La nostra politica è quella di non esprimere nessun tipo di giudizio su titoli, soprattutto se sono così vicini a noi, appartenenti alla nostra economia domestica. Se me lo dice, io oriento il discorso in termini settoriali, no, tematici. A livello di settore, insomma. Qual era? Di settore, diciamo il settore petrolifero e delle utility. Benissimo, ci possiamo sbilanciare almeno in questi termini. La ringrazio, Mauro, abbia solo qualche minuto di pazienza, andiamo in pausa tra poco. Salvadanaio. Ci rimettiamo le cuffie e ricominciamo a Salvadanaio. Questa mattina affrontiamo le tematiche di mercato, cosa sta succedendo sui listini internazionali, in realtà è un tema che ci appassiona, di cui parliamo spesso, e soprattutto alla luce di questa tendenza che si sta registrando dai minimi di marzo, le piazze finanziarie praticamente tutte, qualcuna addirittura raddoppiato il proprio valore, altre hanno una crescita comunque media del 40, 50, 60%. Allora, sono ragionevoli queste valutazioni e soprattutto cosa succederà da domani, da quando negli Stati Uniti riprende la stagione delle trimestrali e comincia come sempre il gigante dell'alluminio Alcoa. E allora partiamo proprio da qui, visto che un ascoltatore ci ha chiesto, parliamo un po' di petrolio, lui voleva sapere, ma in termini generali anche di materie prime, con questa crescita che sì, magari va un po' meno peggio di quanto non si poteva prevedere a livello generale qualche mese fa, e però le grandi economie che facevano incetta Mario Spreafico di materie prime fino ad un paio d'anni fa adesso sicuramente non comprano più tanto alluminio o tanto petrolio per esempio come in passato. In ogni caso, adesso partendo da questo discorso molto lontano, arrivando ai temi di Piazza Affari, come l'ascoltatore ci ha chiesto, insomma, la tendenza del petrolio come potrà riflettersi sui titoli del settore? Ma io credo che l'aspetto fondamentale che caratterizzerà il mercato da qui ai prossimi mesi, se non anni, è quella di una netta diminuzione della finanziarizzazione di questo mercato delle materie prime. Cioè, noi ci siamo abituati a vedere della cosiddetta volatilità, ma anche una percentuale, una componente della determinazione del prezzo delle materie prime, non per effetto di vera domanda e offerta di economia reale, quindi di veri operatori che operano, comprano e vendono materie prime, ma bensì di una fetta importantissima, e si è toccato il picco massimo nell'estate del 2008 con il record dei prezzi delle materie prime, di operatori finanziari, di persone che vogliono fare tutt'altro che utilizzare per fini, diciamo, di economici o sociali il prezzo delle materie prime soprattutto proprio le derrate. E questo mi riferisco essenzialmente al mondo delle materie prime agricole, quelle cosiddette soft commodities. Io credo che si è sgonfiato molto di questo tipo di aspetto, e quindi ci abitueremo a vedere una volatilità forse più contenuta, ma dei prezzi più veritieri, cioè molto più oggetto di quello che sarà domanda e offerta proprio di necessità di materia prima per l'economia reale. E quindi non prezzi, vedo sulle quotazioni tutto questo come si rifletterà. Io credo che sarà probabilmente la crescita delle materie prime sarà legata veramente a quelle che saranno le aspettative di crescita macroeconomica, in misura chiaramente anche qui c'è ancora adesso effettivamente una componente finanziaria, ma non credo che vedremo più i livelli di materie prime di petrolio dell'anno scorso, degli anni passati, degli ultimi soprattutto 2-3 anni. Allora c'è Franco, che non so bene da che località ci chiami, volevo sentire la sua domanda, e qui faccio mettere a Emilio Franco, invece di Ubi per America SGR, i panni, come dire, del commerciale della sua azienda. So che lei si occupa di tutt'altro, però le voglio far impostare una bella trattativa con questo ascoltatore, perché così mi incuriosisce anche capire come impostate il vostro dialogo con i clienti, visto che noi non facciamo altro che predicare il fatto ai nostri ascoltatori che devono prima di tutto conoscere quali sono le proprie esigenze di risparmio e di investimento prima di andare in banca a chiedere un prodotto e un rendimento. Il discorso deve essere complesso, non deve essere solamente basato sulla scelta di un prodotto e di un determinato risultato, almeno secondo noi. Quindi Franco, le do questa opportunità stamattina, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Stavo parlando con lei. Siamo dalla provincia di Torino. Ah, eccoci qua. Esatto. Senta, io volevo chiederle questo ai vostri esperti. Siccome attualmente ho 50.000 euro su un conto bancario, non sì. Sto a dire il... No, non ci... Non mi interessa, appunto. volevo appunto chiedere quali sono le possibilità di un investimento medio-lungo, tranquillo, anche perché io sono stato uno dei famosi fortunati, tra virgolette, che hanno avuto sono stati bugerrati con i bond argentini. Ah, Franco, sì, lo so, ne abbiamo parlato anche a lungo ieri nella nostra trasmissione. Esatto, mi è sentito ieri e tutto. Se c'è qualche buona possibilità. Quando in passato Franco ha comprato i bond argentini, la sua propensione a rischio era questa stessa che ci ha indicato adesso? No, io ero forse un po' più giovane. Va bene. Con un rischio un po' più agguerrito. Adesso invece, visto i precedenti, ho detto... conserviamo questo capitale, piuttosto magari facciamolo fruttare poco, ma cerchiamo di fare in modo che si conservi. Franco, la ringrazio. Allora, Emilio, Franco, qualche indicazione insomma importante, interessante, l'ascoltatore ce l'ha data. Comunque ho un investimento in ottica di tempo medio-lunga davanti a me e sono una persona tranquilla, quindi una propensione all'investimento tranquilla, per cui gli facciamo fare tutti i titoli di Stato con quello che vendono adesso. Questo fa un po' parte dello sforzo di Ubi per America degli ultimi anni. Insomma, cerchiamo di venire incontro a esigenze come quelle rappresentate dal telespettatore, che probabilmente non ha né le risorse economiche, né il tempo, né la pazienza di costruire e gestire un portafoglio estremamente articolato, no? Stiamo parlando di cifre sicuramente importanti per la persona, però rispetto ai portafogli che grossi clienti, anche privati, possono avere, non stiamo parlando di grandi cifre. Quindi la nostra società ha cercato di individuare come possibile soluzione a un problema tipo quello che c'è spesso il nostro ascoltatore, sostanzialmente in due forme, quindi io glielo girerei in due opzioni. Noi abbiamo dei prodotti Total Return, che sono stati prodotti che nel corso dell'ultimo anno e mezzo, degli ultimi 18 mesi, non hanno deluso gli investitori sono che prodotti a rendimento assoluto, tanto sono, per tradurlo sono prodotti, ai nostri ascoltatori. Sono prodotti a rendimento assoluto, ma non sono prodotti flessibili nel senso stretto del termine, cioè sono prodotti che hanno l'obiettivo di generare un rendimento progressivo nel corso del tempo, con una certa stabilità della volatilità del prodotto, e fanno un asset allocation, uno spostamento fra attività rischiose, non fanno di questo spostamento la leva principale della performance. Ci sono altre leve di performance in questo tipo di prodotto insieme all'asset allocation, e nel caso specifico di un orizzonte medio-lungo noi potremmo suggerire o un prodotto che ha una matrice prevalentemente obbligazionaria e prevalentemente di tipo governativo, che ha come leve di performance l'andamento dei tassi, l'esposizione al corporate bond, l'esposizione valutaria, e questo rappresenta l'80-85% del rischio del portafoglio, con una prevalenza di gestione tattica della componente tassi, duration. Quindi in questo momento in cui noi pensiamo che il processo di disinflazione, cioè di pressione al ribasso del livello generale dei prezzi, continui e che le banche centrali mantengano i tassi bassi per un periodo di tempo prolungato, noi pensiamo che l'investimento obbligazionario governativo sia un buon investimento. È chiaro che lo scenario richiede anche abilità tattica da parte del gestore, e in questo prodotto, che per noi è il total return moderato, ha queste caratteristiche, le ha esibite nel corso del tempo anche nelle fasi più recenti di turbolenza, e in più, non essendo puramente obbligazionario, può avere un'esposizione anche azionaria fino a un massimo del 15% del suo investimento. Però insomma, una buona diversificazione. Esatto, che in ogni caso protegge molto il capitale dell'ascoltatore. Secondo lei quanto deve essere mantenuto fermo un investimento di questo tipo? Qual è il medio-lungo periodo? Ecco, il medio-lungo periodo, noi, appunto, questo è un tema, non sappiamo il nostro ascoltatore cosa intendesse per medio. Ecco, questo prodotto ha un orizzonte di due anni e mezzo, altrimenti una soluzione completamente differente. Che per noi in realtà è medio tendente al breve. Per noi è medio tendente dentro il breve, però purtroppo stiamo vivendo una compressione degli orizzonti temporali da parte della clientela. Questo è inevitabile alla luce della grande volatilità che abbiamo vissuto. Se l'orizzonte fosse veramente un orizzonte di medio e lungo termine, nel senso di 5 anni o più, le opzioni sono due: o un prodotto bilanciato che comunque con un asset allocation almeno 50% equity effettivamente azionario, su un orizzonte azionario può offrire un buon ritorno. Se no, secondo me, più tattico e opportunistico è un prodotto total return dinamico, si chiama, che invece è quantitativo. Le strategie quantitative vengono da un periodo molto difficile, questo non per UBI Pramerica, ma per il mercato nel complesso. Sappiamo i temi della correlazione, che si sono andate incrementando molto, il fatto che l'alfa di molte di queste strategie sia stato esaurito. Ma io credo che se un consulente farà tutto questo discorso al nostro ascoltatore, poverino, lui magari non capirebbe, vorrebbe una ricetta un po' più semplice. E abbiamo date due, comunque, esatto. Ci sembrano. E quindi, insomma, per concludere con la strategia quantitativa, ecco, magari se ce la può sintetizzare in cosa consiste. No, ecco, l'idea è questa: abbiamo investito molto nell'ultimo anno sulla ricerca, pensiamo che si siano create delle sacche interessanti di valore da estrarre dai mercati azionari attraverso strategie quantitative dove il rischio è molto controllato da parte del gestore, e siamo ottimisti sul fatto che il 2010 possa vedere un ritorno a rendimenti molto interessanti di questi prodotti là dove sono gestiti professionalmente, dove c'è stato investimento in ricerca. Quindi il nostro sforzo in questo momento è di estrarre valore dal mercato evitando la direzionalità del mercato, cercando i trade quindi di tipo cercando relativo, aziende che hanno un certo potenziale di crescita. Questo che dal punto di vista della selezione dei titoli in cui il mercato viene completamente coperto come rischio, ma questa strategia si può implementare a livello di scelta di settori gli uno contro gli altri, di mercati gli uni contro gli altri e anche di valute. Mario Sprafico, faccio fare anche a lei la ricetta per il nostro amico di Torino con un portafoglio. Io capisco, per chi si occupa di private banking magari è molto modesto, magari per questa persona può rappresentare risparmio di tutta la vita, visto che già è incappato nei bond argentini e forse all'epoca ha fatto l'errore di aver investito in un unico prodotto. Chiaramente adesso io ritengo di poter dare un suggerimento di massima, che è quello della diversificazione, come già Franco ci diceva. Secondo lei come dovrebbe comportarsi anche in termini di instaurare il dialogo con il proprio consulente, il nostro amico? Ma guarda, io credo, proprio adesso non conoscendo l'investitore, ma da quello che ho percepito, chiaramente si tratta di un investimento a basso profilo di rischio. Io vedo per il risparmio risparmiatore un'opportunità anche in questa condizione difficile di mercato. Ed è quella, ad esempio, dei titoli di Stato a lungo termine. Cioè i titoli di Stato, i BTP a 10 anni offrono oggi un rendimento, visto proprio la dinamica della curva dei rendimenti, che è 5 volte superiore a quello dei bot a un anno. Non credo che le aspettative di rialzo dei tassi da qui ai prossimi mesi siano così evidenti, e quindi si può obiettivamente avere un vantaggio di una buona cedola su un titolo, quindi un rischio sovrano, quindi un titolo di Stato. Al contrario, proprio per questa situazione, diciamo, di portafoglio globale, oppure opterai per un fondo che investe in titoli governativi a medio e lungo termine. Allora, abbiamo in attesa Mirko da Milano, Walter da Pesaro, Fabrizio da Firenze. Abbiamo anche suggerimenti per chi in viaggio. Posso però sentire Walter da Pesaro, Carmelo, perché credo che l'ascoltatore voglia sostenere che forse abbiamo espresso un quadro pessimistico. Troppo, Walter, ma davvero ci siamo espressi in questi termini? Mi è sembrato radicalmente il contrario. Io volevo essere un po' orientata alla prudenza, perché onestamente mi sembra che le borse abbiano corso un po' troppo e senza grandi motivazioni. Sì, però nonostante questo a me è sembrato che i vostri esperti siano un po' troppo prudenti e timorosi. Non credono che i tassi così bassi, parliamo dello 0,20 sui depositi, sui titoli di Stato, induca la gente a consumare di più, quindi a favorire la ripresa, e a investire in azioni come ha fatto in questi mesi, cioè a continuare questo trend. In fondo, se noi guardiamo il valore assoluto dei prezzi... Ma diciamo non che l'obiettivo del tasso basso è anche quello, effettivamente. Sì. No, in fondo, se guardiamo i prezzi, dalle Fiat soprattutto, non sono neanche a metà strada fra i massimi e i minimi. Cioè, voglio dire, la percentuale di per sé sembra più 80, è eclatante. Invece la Fiat, nonostante questo più 80, è a 9 euro quando ha fatto un minimo di 4 e un massimo di 22. Chi non potrebbe collocarsi molto più verosimilmente attorno ai 12-15 euro, visto che comunque andiamo verso una fase di ripresa dell'economia, quindi siamo su una posizione di ottimismo, di ripresa, non di pessimismo. Walter, la ringrazio, le rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. Ritorniamo a Salva Danaio, cercando di commentare la considerazione fatta da Walter da Pesaro, che comunque aveva detto che insomma i nostri ospiti di questa mattina stanno esprimendo un atteggiamento un po' troppo prudente. Io direi che tante volte la prudenza non è mai troppa, quando poi si rischia di commettere anche degli errori e magari di indicare anche di riportarsi sul mercato azionario anche chi magari non ha la propensione al rischio di farlo in maniera oculata, e forse i tempi non sono maturi, io non lo so. Però Emilio Franco, il nostro ascoltatore, faceva anche un ragionamento di prezzi rispetto ovviamente alle quotazioni delle società quotate a cui si riferiva, ha fatto qualche caso, qualcuna non è neanche a metà strada fra i minimi e i massimi storici. Non è detto che poi i massimi storici toccati siano per forza il nuovo traguardo da raggiungere ad ogni costo, magari anche quei vecchi massimi storici non erano molto ragionevoli. Ma questo è un punto molto delicato che è bene chiarire. Insomma, ciò che guida i prezzi di mercato sono sicuramente gli utili, i tassi di interesse e le prospettive di crescita. Quindi il mercato è una grande macchinetta che sconta ad oggi i flussi di cassa futura che le società possono generare. Quindi non basta guardare a cosa è successo ad un prezzo di un titolo, a un indice di mercato, è importante capire cosa è successo alla base di utili sottostante quell'indicatore. Tanto per dare un'idea, gli utili delle banche europee dai massimi del 2007 a, se sono stati i minimi, comunque ai livelli della fine del secondo trimestre del 2009, sono scesi del 72%. Quindi se i prezzi fossero scesi del 72%, i multipli a cui le banche avrebbero trattato sui minimi di questi utili sarebbero stati esattamente gli stessi del picco del 2007. Questa recessione che abbiamo vissuto ha visto un crollo degli utili significativi, ma in questo momento il consensus, gli analisti nel loro complesso stanno stimando un recupero degli utili piuttosto importante. Sul 2009, se noi prendiamo gli Stati Uniti, le stime sono sull'Europa, se noi prendiamo le stime del 2009, siamo circa un -23-25% di tasso di crescita degli utili, ma sull'anno prossimo le stime sono oltre più 25%, il che significa che se aggiungiamo il tasso di crescita del 2011, sostanzialmente il 2011 rivedrebbe più o meno i picchi in termini di utili del 2007. Questo a noi sembra un po' eccessivo, perché questo ciclo ha delle caratteristiche strutturali per cui probabilmente vedrà delle crescite macroeconomiche più basse delle crescite macroeconomiche più basse, con dei consumatori che sono sotto pressione per ricostituire dei livelli di indebitamento accettabili, specialmente nel mondo anglosassone, e questo determinerà uno sviluppo dei consumi più basso e un tasso di crescita dell'economia più bassa, perché i consumi in America rappresentano il 70% del PIL infatti. Mario Sprafico, tassi di interesse, il nostro ascoltatore puntava e enfatizzava molto questo aspetto, tassi di interesse che prima o poi dovranno ricominciare a salire. Questa mattina la Banca Centrale Australiana ha alzato i suoi tassi dello 0,25%, portandoli al 3,25%. Mi hanno raccontato qualche tempo fa, ma forse solo una leggenda metropolitana, che quello che accade in Australia, pur essendo un'economia molto diversa da quella americana, dalla nostra, eppure le prime cose che succedono là molto spesso vengono poi nel giro di poco replicate anche nelle altre grandi economie. Anche questo può essere, come dire, quello che è successo sui tassi, può essere una avvisaglia che già qua potremo ricominciare a breve a far rientrare tutta la liquidità in circolazione attraverso manovre sui tassi? Questo non lo credo. Credo che quello che è avvenuto in Australia è un indicatore, direi, assolutamente indipendente. L'Australia è come tutti i paesi cosiddetti legati alle materie prime e soprattutto è un paese che ha una dinamica sia di consumi interni che di domanda estera completamente diverso rispetto alle altre economie occidentali. È sempre un paese in cui l'aspetto inflattivo è stato determinante per la crescita economica di quel paese, quindi diciamo tutte le manovre da un punto di vista di politica monetaria sono manovre assolutamente preventive di fronte a dinamiche che effettivamente stanno cambiando nel mondo. L'aspetto dei tassi di interesse, guarda, in generale è un aspetto abbastanza delicato. Io credo che nessuno metta in discussione il fatto che c'è una ripresa in corso, c'è un miglioramento, ma nessuno capisce le caratteristiche e l'entità di questa ripresa. Il passato, io credo, e anche la storia, è una condizione necessaria affinché noi possiamo valutare le aspettative del futuro, ma in questo caso, dopo quello che è successo, non è più sufficiente. È stato spazzato via gran parte del passato, per esempio il concetto del lungo periodo legato alla borsa. Oggi parlare di ripresa degli utili è sicuramente fondamentale per capire le tendenze delle borse e tutto, ma se oggi noi parliamo con qualsiasi imprenditore che incontriamo e ha visto il proprio fatturato i primi tre mesi dell'anno scendere del 30%, un bel po' di persone, ha dovuto lasciare a casa persone, cassa integrazione, ma soprattutto un fatturato in discesa dal 30 al 40% come molte aziende del settore ciclico, io credo che avrà molto da dire su quelli che sono gli aspetti di attesa di ripresa economica. È un imprenditore a cui una politica di bassi tassi di interesse serve, in sostanza. E poi le borse dovranno sempre più rispecchiare questa realtà e meno quella che era la cosiddetta leva finanziaria, il concetto del debito. Franco voleva aggiungere qualcosa rapidissimo prima di sentire un'altra domanda? Sì, secondo me io ho incontrato in una presentazione pubblica il professor Giavazzi settimana scorsa. Secondo me ha usato una metafora per spiegarci dove siamo, molto interessante. No? Noi siamo caduti dal sesto piano di un palazzo e siamo finiti in cantina. Siamo precipitati. Ok, adesso stiamo uscendo dalla cantina di corsa, dalle scale, molto velocemente. Con un po' di fratture, naturalmente. Con un po' di frattura, con affanno. Quindi diciamo il tasso di uscita istantanea è molto elevato, ma il livello che ci separa dal sesto piano è molto alto e si misura con la disoccupazione e con l'eccesso di capacità produttiva. Ci vorrà molto tempo prima che disoccupazione e eccesso di capacità produttiva vengano riassorbiti. Quindi questa è una delle ragioni della lentezza e della crescita substandard che probabilmente vedremo nei prossimi trimestri, ed è una delle ragioni fondamentali, eccesso di capacità produttiva e disoccupazione crescente, che ci fa capire che il processo di disinflazione è un processo che è destinato a proseguire nel corso del tempo. L'ultima domanda, Mirko da Milano, rapidissimo, buongiorno. No, abbiamo tre minuti, un grande serbatoio ancora di secondi. Mirko. Buongiorno. Devo dire, cioè, l'Australia, vabbè, il primo a vedere il sole, infatti festeggia il Capodanno per prima, questo qua penso che sia la leggenda. Allora eccola, infatti. No, ma ne scriveva il nostro Galimberti sul Sole 24 Ore qualche tempo fa, però è una cosa molto vecchia. Devo andare a ripescarla, Mirko, sì. Allora, io volevo dire, cioè, adesso non vorrei andare troppo controcorrente. Secondo me ci sono i presupposti per vedere dei nuovi minimi. Cioè, le spiego anche i motivi, insomma, ragionevolmente. Allora, prima di tutto, secondo me, sono soldi delle banche centrali quelli che sono stati iniettati nel mercato borsistico. Perché più volte anche la Banca del Giappone aveva detto che bisognava comunque trovare una soluzione per tirare sui valori. Fondamentalmente anche perché c'è un ritiro degli stimoli governativi, prima o poi sicuramente ci saranno anche questi. Devono rientrare i governi dei grandi deficit, naturalmente. Quindi. No, anche perché devono restituire adesso i soldi le banche, quindi dovranno per forza ritirare dei titoli, vendere dei titoli. Sì. E volevo dire, c'è più che altro anche perché a fine anno scadono le famose garanzie governative sulle banche. Quindi volevo capire anche cosa succedeva. E poi anche perché, cioè, noi torniamo indietro e vediamo i corsi di borsa, non relativamente cioè, negli anni 2000, cioè torniamo indietro negli anni 80-90, vediamo che cioè, i valori di borsa erano talmente bassi, solo dopo quando sono arrivati i cauroli e cioè, gli americani insomma ad amplificare, a gonfiare i valori, erano totalmente diversi. Quindi non ci dobbiamo stupire se una Fiat, come ha detto il mio collega, insomma siete proprio incaponiti lì, non c'è niente da fare, ma guarda, no, nel senso io cioè, parlo perché ci sono dei riferimenti fatti prima, più che altro c'era un 3,30 sì. Di minimo. Mirko, devo salutarla perché ci manca un minuto di tempo prima della chiusura, lascio questa analisi finale a Mario Spreafico di Schroeder's Private Banking. E allora, i presupposti per rivedere nuovi minimi, questo è il presupposto della considerazione di Mirko, ci crede lei o no? E soprattutto magari se ci può dare anche un'indicazione sulla stagione delle trimestrali americane, che previsione avete fatto? Allora, non credo che vedremo dei nuovi minimi a breve, o almeno di fattori esogeni che sono veramente imprevedibili. Credo che obiettivamente il tema della liquidità è stato determinante affinché ci sia una ripresa in corso, soprattutto delle quotazioni azionarie. Questa liquidità effettivamente in eccesso dovrà essere ridistribuita a livello e riallocata in modo più efficiente a livello di economia reale, quindi a tutti gli effetti non credo alla dinamica di nuovi minimi. Da un certo punto di vista però credo anche che probabilmente il fattore fondamentale sarà capire come l'economia reale porterà un adeguamento ai conti delle aziende, e questo è fondamentale perché non credo che tutti i settori saranno l'elemento trainante della crescita futura. Ce ne dice uno, quale sarà uno dei trainanti? Ma assolutamente il settore industriale, non più il settore finanziario come negli ultimi anni. Franco, non ce la facciamo, devo reinvitarla prossimamente un'altra volta, vedremo magari quando questa stagione delle trimestrali sarà nel pieno, torneremo ad analizzare i conti dell'azienda, a far loro l'analisi logica e grammaticale per vedere anche se poi andrà avanti questo gioco che qualche volta viene fatto, magari fare delle stime al minimo per fare in modo poi che il risultato aziendale batta le attese e i titoli delle società quotate in borsa schizzino, ma questo è un altro discorso. Grazie per essere stati con noi, devo salutare tutti rapidamente, a domani.